mattina per fare ginnastica. Ad alta voce lo stereo, ti piace la musica. E ti fai sempre più bello ogni giorno che passi tu. Tu metti scarpe Kodak per crescere in fretta un centimetro in più. T'innamoro quasi tutti i giorni, parlo solo a notte in the sun. E ti piace solo l'uomo grande e chiara. In da casa tua la stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli. E tua madre ti difende sempre chiara. Vince sempre tu. A volte sembra intrattabile, a volte un po' stupida. Non vuoi fare niente da casa se non c'è sta musica. E quando scende la sera e sai che ti aspetta un lui, ti metti la gonna più corta perché lui geloso ti piace di più. T'innamoro quasi tutte le giorni, parla solo la notte in the sun. E ti piace solo l'uomo grande e chiara. In da casa tua la stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli. E tua madre ti difende sempre chiara. Chiara sei cresciuta troppo in fretta, colpa di tuo amore a prima vista. Se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara.